Da quanto mi dici, questa tecnologia trasformerà completamente le nostre abitudini, facendo scomparire interi settori produttivi e professioni. Sì, hai ragione. L'età della pietra, del resto, non è finita perché ad un certo punto sono mancate le pietre, ma si sono sperimentate nuove tecnologie che sono risultate più efficaci della precedente. Pensa al mercato discografico. Un musicista potrebbe raggiungere direttamente il suo pubblico incassando il giusto compenso e non perdendo mai diritti d'autore. Esistono già piattaforme basate sulla tecnologia blockchain che operano su questi principi, tagliando completamente fuori tutta l'industria discografica che nel frattempo sta pensando a come reagire. Professioni scompariranno ed altre nuove ne nasceranno, come in ogni processo innovativo.